Tutto quello che è successo intorno alla giustizia in questi giorni porta inevitabilmente quasi a quello che si è visto in Parlamento ieri con Italia Viva che si astiene e la Giunta per le autorizzazioni che blocca momentaneamente il processo a Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Sarà poi l'Aula ad esprimersi, ma il caso politico intorno ai renziani è di nuovo aperto. Sul fronte Covid, il caso invece è quello lombardo. Ci sono molte incertezze sulla riapertura dei confini regionali a partire dal 3 giugno. A dirlo saranno i numeri diffusi tra giovedì e venerdì. Si ridimensionano intanto i famosi assistenti civici che passano al ruolo di porta spesa o controlla file, mentre parte lo screening con test sierologici della Croce Rossa, anche se 6 su 10 tra le persone contattate al momento hanno detto di no. Giornata importante sul fronte economico. Oggi la Commissione europea svelerà il suo piano sul Recovery Fund, il fondo per la ripresa post-Covid, mentre le borse hanno già fatto da sole. Con la giornata di ieri i livelli sono tornati a quelli di inizio marzo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want at any old time. I'm free to do what I want at any old time. Sì, va bene, I'm free. Magari lo canterete voi, eh? Noi che viviamo in Lombardia, mi sa che è dura, eh. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, eh. È mercoledì 27 maggio, sono le 6:31 minuti. Questa è una nuova puntata di 24 Mattino con la nostra task force di stamattina, composta da Carmelo Lauricella in regia, Anita Panizza e Giorgio De Luca in assistenza in redazione. In redazione anche Alessandro Marco Tulli e Gloria Guerrera, come sempre, insieme ai nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E voi, la nostra task force vera. Mi potete raggiungere al 349-238-6666, SMS, WhatsApp audio. Le vostre voci fatemele sentire, dai. Oh, a proposito di task force, ho scoperto oggi in un pezzo niente male di Antonello Capolale sul Fatto Quotidiano che in Trentino è nata una task force che deve occuparsi delle task force. È stupendo. La provincia, l'ente che rappresenta l'autonomia speciale del Trentino, si affida a un gruppo di lavoro del quale farà parte almeno uno di provenienza militare, e che appunto si occuperà di semplificare ogni complicazione. Il controllore dei controllori, no? Che dobbiamo fare? Sarà il Trentino, sarà la provincia autonoma di Trento, ma sempre di Italia si tratta. La complicazione degli affari semplici. Da cosa iniziamo? Oh, oggi iniziamo dalla politica, perché lo sapete perfettamente cosa è successo ieri. Sì, perché avete sentito GR24, avete seguito la giornata di ieri, presumibilmente, però va riassunto. La Giunta per le autorizzazioni del Senato doveva decidere su Matteo Salvini se dovesse andare a processo per la vicenda della nave Open Arms. Poi dovrà votare il Senato, l'Aula del Senato, e però intanto la Giunta ieri ha respinto questa autorizzazione. Lo ha fatto in realtà a larga maggioranza, 7 contro 13, determinanti sono stati i voti di un ex 5 Stelle Giarrusso e di una 5 Stelle attuale, Riccardi, e il fatto che Italia Viva abbia deciso di astenersi. Sentiamo il protagonista di giornata, Matteo Salvini. una buona notizia, almeno per quello che mi riguarda, in un periodo di attacchi, di intercettazioni, di processi, di denunce, la giunta del Senato ha appena detto no all'ennesimo processo a mio carico, in questo caso per aver bloccato nell'agosto scorso lo sbarco di 161 immigrati dalla nave spagnola Open Arms. Hanno votato i senatori 13 a 7. Ancora Salvini. Ora è chiaro ed evidente che da ministro dell'Interno il blocco degli sbarchi, la lotta agli scafisti, alla tratta di esseri umani e lo schiavismo all'immigrazione clandestina era un mio dovere, non un mio capriccio o un mio diletto personale. Il presidente della giunta, Gasparri. Allora ministro Salvini ha agito in un'azione di governo confortata anche dal fatto che il presidente del Consiglio Conte a un certo punto gli scrisse una lettera dicendo di fare sbarcare i minori, cosa che Salvini, rispondendo con una lettera pur non condividendo, ottemperò, dimostrando così che c'era un'azione che coinvolgeva il governo nella sua complessità. Eh già, perché qua il tema è anche questo: era coordinata con il governo l'azione? Sentiamo proprio Giarrusso. Io non sono in dissenso, perché io ho espresso la posizione che il Movimento 5 Stelle ha espresso in giunta pochi mesi fa. Sono altri che sono in dissenso con se stessi e con la propria storia. E l'attuale 5 Stelle, Riccardi, che tra l'altro è un avvocato civilista, la quale dice, se a questo punto mi dovranno cacciare, mi cacceranno, che devo fare? Ho votato in base a un mio convincimento giuridico. Se poi dopo il movimento mi espelle perché ho votato secondo me quella che era la corretta applicazione di legge, mi assumerò le conseguenze di questo mio voto. Italia Viva, Ginetti, che fa parte di questa giunta di Italia Viva, sentiamo. Non è una scelta politica. Il giudizio che noi abbiamo sempre espresso nei confronti delle politiche migratorie dell'ex ministro dell'Interno Salvini è già noto a tutti, quindi è una scelta nel merito della questione, in coerenza con la posizione che avevamo già assunto per la vicenda Gregoretti, e cioè la mancanza di ulteriore istruttoria, di approfondimento assolutamente necessaria per poter definire la questione. E sempre del Movimento 5 Stelle, ma questa volta dall'altra parte, dal punto di vista del voto, l'evangelista che dice Italia Viva sta facendo dei giochetti politici. Sì, mio parere personalissimo che si tratta di giochi politici, assolutamente. Quindi tecnico, guardate, di tecnico c'è cioè ben poco, anche se i commissari della giunta, qui si ragiona in punto di diritto, ma insomma nessuno è nato ieri. Cara Marianna Aprile, come stai? Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Bentornata da noi, giornalista, autrice del Grande Inganno, First Lady, Nemiche Perfette ed Eroine Silenti, così la politica nasconde le donne. Guardate, io vi dico questo, adesso non perché è da noi Marianna Aprile, però. Il titolo era un po' respingente per me, e poi invece ho iniziato a leggerlo ed è un bel libro di comunicazione politica e non solamente di quella, quindi attenzione. Allora, cara Marianna, inizierei da qua, da questi renziani che continuano ad agitare la maggioranza, questo Conte che continua ad incontrare i renziani, incontra Renzi, tanto che oggi c'è qualche retroscena sui giornali che dice, strano, con Matteo sembrava tutto a posto la settimana scorsa, e poi boom, gli arriva la botta ogni volta. Sì, però devo dire che sui giornali di oggi c'è molta, come era prevedibile, molta attenzione per questa renzata che, diciamo, non è né la prima né l'ultima, verosimilmente, e che si spiega con diciamo, un'ansia di visibilità e di ricerca a calotaggi di un consenso che non arriva evidentemente a guardare i sondaggi, ma si parla molto poco del versante 5 Stelle, perché mentre appunto le indiscrezioni parlano di un Conte stupito perché con Matteo tutto a posto, non c'è un'indiscrezione che dica altrettanto sul fronte 5 Stelle, no? Cioè non è che abbiamo letto un Conte stupito perché poi 5 Stelle tutto a posto su qualsiasi dei dossier aperti, insomma non necessariamente solo sul voto di ieri, perché il punto è che noi parliamo di questa vicenda come un esempio del tatticismo renziano, di un possibile segnale di un asse Salvini-Renzi eccetera, ma dimentichiamo completamente, e quindi ci fermiamo sul metodo, no, renziano, e dimentichiamo completamente il merito. Cioè questa vicenda è il paradigma perfetto del peccato originale del governo, sì. Conte, il fatto che il passaggio da giallo-verdi a giallo-rosa, o come vogliamo chiamarli, esatto, questo, no? Perché cioè, sulle politiche migratorie, ammesso che lasciare la gente in mare possa definirsi politica migratoria, ma sulle politiche migratorie c'è un assoluto allineamento. Cioè, avremmo dovuto stupirci del voto dei 5 Stelle di ieri, non dell'ex 5 Stelle Giarrusso o della Ricciardi. Ma infatti Mariana Giarrusso, tra le altre cose che dice: guardate, io mi sono attenuto a quello che ci dissero di fare i nostri attivisti su Rousseau nel caso di nave Diciotti. La nave Diciotti, per giunta, era una nave italiana e questa è una nave spagnola. Dice, io che dovevo fare? Ma è assolutamente quello, cioè, mentre per, ora, senza dare giudizi per carità, però mentre diciamo negli ultimi due anni Conte e i suoi ministri hanno progressivamente cambiato più volte pelle per cercare di adeguarsi a una realtà e possibilmente di rimanere a Palazzo Chigi, i fatti rimangono, e i fatti sono che su quel modus operandi c'era un allineamento, c'era addirittura una corsa a suon di tweet tra Toninelli e Salvini, ricordiamo il caso 18, ricordiamo la chiusura dei porti, ricordiamo tutti gli episodi di quel periodo, a chi dovesse intestarsi la faccia brutta da fare contro questi. Ora, che il problema diventi la solita renzata che verosimilmente non porterà a niente, come non ha portato a niente in termini diciamo di consenso elettorale, come non hanno portato a niente le renzate precedenti, mi sembra un'opzione di distrazione di massa. Io rimarrei sul merito, cioè sulle politiche migratorie di Salvini. Il governo Conte primo era allineato, sì. Il governo Conte secondo, ahimè, lo è altrettanto, perché non si sono toccati i decreti di sicurezza, a momenti si spacca il governo per regolarizzare pro tempore degli irregolari di cui pure la nostra economia ha bisogno. Cioè, non è cambiato niente, noi stiamo, sì, parlando di una natura, come si dice, di uno snaturarsi. Sì. In linea, in realtà Giarrusso è stato più coerente dei colleghi 5 Stelle che hanno votato. Mai avrei pensato, sì, di essere d'accordo con il senatore Giarrusso, ma però così è. Tra l'altro sulla questione di Italia Viva ci torniamo tra un attimo, perché sarà nostro ospite Davide Faraone, appunto, di Italia Viva, tra pochi minuti, e ci faremo raccontare un po' di cose, perché c'è anche quest'altro caso, lo segnalo agli ascoltatori, della esponente Italia Viva eletta a presidente della commissione d'inchiesta della regione Lombardia sulla vicenda Covid-19 con i voti di Lega e Forza Italia. E anche questo, no, agita un po' le cose, agita un po' le acque, se vogliamo, tra PD e Italia Viva un'altra volta. Il tutto si innesta, come ovvio, e lo sappiamo, nella vicenda delle chat di Palamara, l'ex presidente dell'ANM, ampi stralci sono stati pubblicati in queste ore, soprattutto dal quotidiano La Verità, chat di Palamara dalle quali emerge discussione con altri magistrati nei quali si parla esattamente di vicende come queste, della procura di Agrigento che indaga Salvini per sequestro di persona, con un procuratore che gli dice sì, però insomma i colleghi di Agrigento stanno sbagliando, c'è un po' di fuffa, la faccio semplice, intorno a questa vicenda, e Palamara che risponde sì, siamo d'accordo, però lo dobbiamo colpire, testuali parole, dice è una merda. Quindi insomma il tutto si entra anche ovviamente in tutto ciò. Sullo sfondo, ma nemmeno troppo, perché qua siamo e siamo ancora in una fase di semi-lockdown, la famosa fase 2, c'è tutta la questione Covid, si è aperta la vicenda degli assistenti civici. Ieri ne abbiamo parlato all'infinito e ancora non abbiamo capito esattamente cosa faranno, forse innanzitutto se ci saranno e poi cosa faranno. Dice Boccia, mi sembra di aver capito, a questo punto siamo sui contafile o cose di questo genere. Non ho capito bene. Mariana, tu l'hai capito? Adesso sentiamo Boccia tra un attimo, però dimmi tu se hai capito bene. È il solito pasticciaccio brutto di gente che non si parla, o se si parla non si capisce, se si capisce poi fa finta di non essersi capita. Cioè, possiamo prendere qualsiasi argomento che c'è sui giornali oggi e lo schema nella maggioranza del governo è sempre questo. Io quello che ho capito al momento è che saranno delle personcine educate e sorridenti che, se vedono una vecchina per strada, la aiutano a attraversare. Ora non capisco a cosa serva la pettorina messa al TG1 in diretta a tutto questo. In tutto questo, però, diciamo che, battute a parte, l'ho trovata un'operazione molto, molto rischiosa, nel senso che leggiamo quotidianamente i timori per una tensione sociale legata a tutte le difficoltà che conosciamo e di cui tu parli quotidianamente, che è in crescita. Mettere in giro per l'Italia 60.000 persone il cui pedigree non è sicuramente, non c'è il tempo di accertare, mettiamola così, con chissà quale potere di dissuasione su comportamenti di privati cittadini, la trovo veramente un'idea poco lungimirante. Sì, ora, che nasca da una difficoltà effettiva dei comuni, come dice De Carlo oggi sui giornali, non c'è dubbio, ma la soluzione mi sembra sinceramente paragonabile alla pericolosità del lanciafiamme sulle laurea di De Luca, cioè è lo stesso principio di proporzione. Immagino che in una democrazia occidentale ci siano modi più consoni di gestire la cosa. Traffico. Mattino. Buongiorno Davide Faraone, senatore di Italia Viva, come sta Faraone? Buongiorno. Buongiorno a voi, benissimo. Senta, molti dicono questa uscita, diciamo questa decisione che avete preso di astenervi in giunta per il processo a Salvini, è la prova che avete fatto un accordo con la Lega. Qualche, diciamo, trasmissione di comica o non so che cosa che possa essersi detto questo. Cioè, io credo che noi abbiamo fatto una scelta che è una scelta, diciamo, di coerenza rispetto all'ultimo voto che c'è stato sempre in giunta per autorizzazioni, in cui non abbiamo partecipato al voto, in quell'occasione in compagnia di PD e Movimento 5 Stelle, quindi senza che in quel caso ci fosse alcuno scandalo. Oggi chi ha cambiato idea sono state altre forze politiche nel voto. Noi abbiamo semplicemente detto che da un lato contrastiamo duramente le politiche di Salvini. Io ricordo, sono stato a bordo della Sea-Watch, ho dormito su quel ponte per contrastare Salvini. Dall'altro lato però non utilizziamo la giustizia ai fini di battaglia politica e quindi vogliamo guardare le carte, approfondire prima di esprimere giudizi e mandare qualcuno a processo. Sono due cose distinte. In aula cosa farete, Faraone? E questo lo valuteremo guardando le carte, chiedendo gli approfondimenti che in giunta per l'autorizzazione non ci sono stati concessi. Il tema è molto complesso. Su Open Arms più che su Gregoretti, questa valutazione sulla responsabilità individuale o responsabilità collettiva del governo è ancora più complessa da comprendere, per cui stiamo approfondendo e valuteremo con grande serenità, ma con spirito assolutamente garantista. Contrastare le politiche di Salvini disumane sull'immigrazione, essere garantisti in tema di giustizia, così come siamo stati su Bonafede quando si pretendevano dimissioni per lui sulle dichiarazioni di Matteo, che aveva detto che si era fatto condizionare dalla mafia nella scelta del direttore del DAP, e noi abbiamo sembra un risultato anche in quel caso. Senta Faraone, c'è chi dice che la prova dell'accordo tra Lega e Italia Viva è nel fatto, la controprova, no? È in questa elezione della vostra consigliera regionale alla guida della commissione d'inchiesta su Covid-19 della Regione Lombardia, con voti determinanti della Lega e di Forza Italia. Presidente della commissione in Lombardia sul caso Covid, per scelta della maggioranza, spetterebbe alle opposizioni, siano esse Italia Viva, siano esse PD o Movimento 5 Stelle. Quindi, premesso questo, quindi, se fosse stato uno del PD o dei 5 Stelle, non credo che ci sarebbe stato scandalo, idem Italia Viva. Non c'è nessuno scambio, saremmo veramente stolti, stupidi a pensare di fare uno scambio nello stesso identico giorno su due cose di questo genere, dopodiché per evitare ogni problema, siccome non ci interessano le poltrone, abbiamo chiesto alla nostra consigliera di dimettersi e di lasciare la poltrona a chi interessa. Ah, quindi rinuncerete a quella poltrona, insomma, la vostra... Pur di evitare queste... giochini che ogni volta cercano di immiserire le nostre posizioni politiche, che sono soltanto politiche, rinunciamo a questa volta e a tante altre abbiamo fatto in passato. Senta Faraone, lo vede il complottone contro Salvini? Perché insomma queste intercettazioni di Palamara, queste chat che vengono pubblicate ormai un po' da tutti, nelle quali ci sono delle cose, lo dico agli ascoltatori, curiose, perché ci sono oggi il Corriere della Sera pubblica le congratulazioni di Palamara praticamente con tutti gli allenatori della Roma, tutti, il ringraziamento a Di Francesco, ti hanno fatto del male a mandarti via, e anche il benvenuto a Ranieri, grande Claudio, andiamo, vabbè, insomma c'è veramente di tutto dentro queste chat. Però ci sono anche quelle frasi su Salvini che tutti abbiamo raccontato, abbiamo visto e letto, Faraone, c'è il complottone secondo lei? Ma complottone no, però sicuramente è gravissimo quello che sta emergendo da questa intercettazione. Tanto è grave che finiscano sui giornali intercettazioni anche queste di cui stavi parlando, sulla Roma o su tutto il resto. Cioè io credo che le conversazioni private per tutti i cittadini che finiscano sui giornali quando non hanno rilevanza penale sia una follia. Al tempo stesso credo che però quelle chiacchierate fra magistrati in cui si discute di Salvini in quel modo, o le chiacchierate fra magistrati e giornalisti, o le chiacchierate fra magistrati e politici, fanno apparire e emergere uno spaccato di commissione che è molto pericolosa e molto grave per la nostra democrazia, e bisogna assolutamente intervenire. La ringrazio, grazie Davide Faraone per essere stato con noi, buona giornata, vedremo come andranno le cose oggi anche sul fronte politico, perché mi sembra che la tensione si incrementi. Allora, gli assistenti civici, cara Marianna Aprile che è ancora con noi, dicevamo di boccia, sentiamo. L'assistente civico va davanti alle chiese e verifica il numero di persone che possono entrare, aiuta evidentemente ne il vogliono flusso, entrare di più, lui che fa? E gli dice è opportuno, perché non ci organizziamo in maniera diversa? E quello gli dice no, io voglio entrare uguale. E basta, non può fare altro se non ricordare scena, le regole. Marianna, la scena te la immagini, no? Che descrive Floris, il vecchietto davanti alla chiesa che gli dice no, levati assistente civico, entro lo stesso. Ci dice bene se è il vecchietto che intende andare a messa. Cioè io immagino su profili sociali un po' più problematici questa stessa scena, e mi fa decisamente intimo. Affascinante. Nardella, sentiamolo, va. Non ho mai pensato di aver bisogno di guardie civili. A noi interessa che la protezione civile abbia una rete di volontari che possano aiutare a fare tutta una serie di attività a favore dei cittadini bisognosi. Tutto nasce da cosa? Da il tema della movida di questi fine settimana, che sono stati raccontati come pieni di gente, con grandi assembramenti, i cui effetti però, ci dice Lopalco, il professor Lopalco, vedremo da metà giugno. se fra quei ragazzi c'era qualche positivo che quindi ha attivato delle catene di trasmissione, ci facciamo due conti, dobbiamo aspettare due o tre, noi le chiamiamo generazioni di casi, cioè un caso secondario e poi un altro caso secondario, quindi facendo i conti ci vorranno due o tre settimane come minimo. Due o tre settimane come minimo, mentre invece, cara Marianna, per capire, anche tu vivi a Milano? Il nostro destino lo conosceremo tra giovedì e venerdì, se finalmente potremo uscire da questa regione. Così come i piemontesi, credo, sono le due regioni un po' più a rischio in questo momento. Vedremo dunque che cosa accadrà. Allora, grazie cara Marianna Aprile, alla prossima. Buona giornata, giornalista, lo ripeto, autrice del Grande Inganno, First Lady, Nemiche Perfette, Eroine Silenti, Così la politica nasconde le donne. Chiudiamo qua. E dato che mi avanzano ancora 30 secondi, miracolosamente, questa volta, mi permetto, qua, non dico un fatto personale, è un fatto che riguarda Radio 24, però, insomma, ha del personale. Allora, è tornato online uno dei prodotti che negli anni che ho fatto a Radio 24, uno dei prodotti dei quali vado più fiero in assoluto. Ed è il Gazzettino del Risorgimento. Era un prodotto quotidiano che facemmo insieme al collega Paolo Piacenza in occasione dei 150 anni per l'Unità d'Italia, ed era un giornale radio ambientato all'epoca. 3 minuti e mezzo di puntata ogni giorno per un totale, adesso non mi ricordo, 150-200 puntate. Le prime 42 per essere esatti, così abbiamo tenuto, no, un filo di ordine cronologico giusto. Sono online sul nostro sito nella sezione dedicata alla scuola. Andate e ditemi che ne pensate. 24 mattino @radio24.it, la nostra pagina Facebook, tutti i contatti che conoscete. GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.